Dove the gas. Le trasmissioni in diretta, cambio di postazione, questa è Interferenza, trasmissione a cura del laboratorio Sguardi sui Generis. Quest'oggi ai microfoni Daniela e Francesca. In una versione un po' insolita, perché come diceva già prima Snoopy di Drink and Fight, quest'oggi la strumentazione della radio non funziona bene, quindi non abbiamo a nostra disposizione internet. Questo ci coglie un po' di sorpresa, per cui sarà una puntata un po' work in progress, vedremo mano a mano se ritorna la connessione, e insomma questo sarà un po' il discrimine per affrontare alcuni argomenti di cui pensavamo di parlare, altrimenti insomma mano a mano ci organizzeremo diversamente per tenervi compagnia in questa oretta a nostra disposizione. Andiamo subito a lasciarvi come di consueto i contatti per interagire con gli studios di Radio Blackout, che sono 346-66-73-263 il numero di cellulare e 011-24-95-669 il numero di telefono fisso. E adesso passo la palla a Francesca, che ci presenta l'artista musicale di cui volevamo farvi ascoltare alcuni pezzi oggi. Sì, iniziamo con un po' di hip hop che arriva dalla Francia. Lei si chiama Bams, è un artista emersa negli anni 90 appunto nel contesto francese, che ha fatto uscire diversi album. Questo primo pezzo che vi facciamo sentire del suo primo disco si intitola Differente. Buon ascolto. Différent, je suis plus la même, je suis plus la même, je suis plus la même, je suis plus la même, je suis plus la même, je suis plus la même, je suis plus la même, je suis plus la même, je suis plus la même, je suis plus la même, je suis plus la même, je suis plus la même, je suis plus la même, je suis plus la même, je suis plus la même, je suis plus la même, je suis plus la même, je suis plus la même, je suis plus la même, je suis plus la même, je suis plus la même, je suis plus la même, je suis plus la même, je suis plus la même, je suis plus la même, je suis plus la même, je suis plus la même, je suis plus la même, je suis plus la même, je suis plus la même, je suis plus la même, je suis plus la même, je suis plus la même, je suis plus la même, je suis plus la même, je suis plus la même, je suis plus la même, je suis plus la même, je suis plus la même, je suis plus la même, je suis plus la même, je suis plus la même, je suis plus la même, je suis plus la même, je suis plus la même, je suis plus la même, je suis plus la Encore une fois, si on bascule et l'ambiance passe en soi. Chez toi, je m'envoie ton complice. Ouais, vise, comme si transforme ma vie en supplice. Rien à faire pour sa fesse. La situation bascule et l'ambiance passe en soi. Chez toi, je m'envoie ton complice. Vise, comme si transforme ma vie en supplice. Rien à faire pour sa fesse. La situation bascule et l'ambiance passe en soi. E 13, allora nonostante i problemi tecnici proviamo a fare del nostro meglio per tenervi compagnia fino alle 17 sulle libere frequenze di Blackout. Adesso stiamo preparando una diretta da Parigi per farci dare un aggiornamento non solo sulla situazione delle proteste contro i matrimoni gay di cui avevamo già parlato alcune puntate fa, ma ovviamente anche per farci raccontare di quello che è successo dopo mercoledì sera, dopo che un giovane antifascista parigino è stato ucciso per i colpi ricevuti da un gruppo di neofascisti che lo hanno aggredito. Ecco, ci sono state diverse mobilitazioni, in particolare ieri una manifestazione che ha attraversato Parigi con migliaia di persone, quindi tra poco ci metteremo in contatto con una compagna che abita a Parigi ormai da alcuni anni, ecco, che ci saprà sicuramente dire qualcosa di più. Nell'attesa vi lasciamo ancora un pezzo musicale, poi torniamo subito in diretta. Celle sur ma sono un profilo. Les sons de femmes de cannabis, des os. Le rap, des os, la terre est où la map, j'ai son. Tu prends dans tes pédales, le fait d'eau. Même scénario, le gringo monte en scène, il la fête. Il vient sa perte, la wesh américaine, il a le temps pour la montagne, pas celui du FN. On vit ses racines africaines, voilà ce qui me fout la haine. Ah, où sont passés les commentaires, ont-ils existé? Faut-il inventer une nouvelle gestapo? Le rap, prend le crack, les colons, les passions, les petits politiques, les détracteurs du rap. Ouais, y'a aucune amie qui tape du rap. Son Ival, pas dans toujours mon récital. Avis d'instrumental, je pose un lyrical musical. Raconte la vie générale. Je rappe, c'est comme toi, pour changer. Je dis pas les choses que j'aimerais voir changer. Si je rappe pour la famille qui plaît en danger, je garde en tête les injustices que je veux voir changer. Je rappe, c'est comme toi, pour changer. Je dis pas les choses que j'aimerais voir changer. Si je rappe pour la famille qui plaît en danger, je garde en tête. Les injustices que je veux pas manger. La salle, chef d'un monde meilleur. Où les géniteurs détressent. Passion, courage, rendront les honneurs. Me sortiront de cette puanteur. Morale infernale du satanisme et d'humeur. Oh Seigneur, on me dit souvent que l'inter s'énerve. Et que tu connais, ça tarde et mais pour recommencer. Dois-je ignorer les 300 jeunes qui tentent de se suicider. Chaque jour en France, 40 vont tirer 50 ou me céder. Condoléance pour ser avec insistance. Ça pour l'éloquence et pour l'assistance. Je veux bien plancher, essayer de se faire. Bouger, penser, changer, quitte à te faire tendre, j'ai mais pour un regard réveillé, une âme prête à larger, mon habit moulé, formalisé, j'accepte, si tu es la cervelle, mais si mes mots s'en mêlent, ils sortiront grâce aux plaquettes d'un forcel. Le rap, c'est comme toi, pour manger, mais je ne dis pas les choses que j'aimerais voir changer. Si ce rap pour la famille, tu t'aides en danger, je garde en tête les injustices que je veux voir changer. Le rap, c'est comme toi, pour manger, mais je ne dis pas les choses que j'aimerais voir changer. Il sera pour la famille du bel en danger. Je garde en tête les injustices que je veux voir venger. Je suis pas là pour soulager les temps, vous faire digérer. Les mots doivent être ingérés. En première aspect, j'adoucis la plaie. Donc, sauf ça, est définitivement l'abcès. C'est dans le boycott la bonne parole. Ouais, oubliez-le, comme un air de Jack Créole. Auréole de fils, ça pue la merde, c'est pas pratique, ni réel. Pourtant, c'est vrai qu'aux gens s'y perdent. Ce qui rappe pour la gloire, la prime, les femmes, le pouvoir. Et les congés devraient être poursuivis pour malveillance. Pour mon assistance à personne en danger. Y'a danger. Le rap, c'est comme toi pour manger. Mais je ne dis pas les choses que j'aimerais voir changer. Si je rappe pour la famille du fait en danger, je garde en tête les injustices que je veux voir changer. Le rap, c'est comme toi pour manger, mais je ne dis pas les choses que j'aimerais voir changer. Il sera pour la famille du père en danger. Je garde en tête les individus que je veux voir changer. Je rate pour manger comme toi pour manger, mais je ne dis pas les choses que j'aimerais voir changer. Il sera pour la famille du père en danger. Je garde en tête les individus que je veux voir changer. Je rate pour manger comme toi pour manger, mais je ne dis pas les choses que j'aimerais voir changer. Il sera pour la famille du père en danger. Je garde en tête les injustices que je veux voir manger. Sempre in ascolto di Interferenze, questo è sempre Bams, ma con sonorità un po' diverse. Ci prepariamo poi a una transizione anche per quanto riguarda la musica, appunto sarà una puntata un po' più musicale, tra pochissimi minuti invece la diretta da Parigi. Già nelle scorse puntate di Interferenze abbiamo dato spazio alla Francia, abbiamo parlato molto di Parigi, in particolare sia per le proteste contro la legge che di fatto estende la possibilità di matrimonio anche ai soggetti e alle persone non eterosessuali, e insomma si è visto come questo abbia suscitato grandissime reazioni in alcune di queste sue sfaccettature, probabilmente anche anche forse non così attese. La Francia, diciamo, ha mostrato un volto, dei rigurgiti di intolleranza anche molto forti, che sono sfociati in atti estremamente violenti, non da ultimo insomma l'uccisione di questo giovanissimo compagno antifascista Clément, per cui c'è stato ieri un corteo insomma per denunciare quanto è successo, per insomma denunciare la rabbia e far sentire che sicuramente Parigi non è solo questo. E diciamo che noi da qui sicuramente abbiamo alcuni elementi, ma ci sembra giusto da questi microfoni dare voce a chi vive direttamente quel contesto, a chi sicuramente ha più elementi di noi per raccontarci un po' quello che sta succedendo a Parigi e le reazioni dei gruppi, delle persone che sono lì. Per questo motivo abbiamo deciso di intervistare Carlotta, che è una compagna che vive a Parigi da 6 anni, per farci raccontare appunto un po' da lei quanto sta accadendo, in particolare la manifestazione di ieri. Carlotta, ci senti? Sì, ciao. Appunto, noi ti chiederemo di parlarci un po' a partire da ieri, ma allargando anche un po' il quadro, diciamo, al clima di queste ultime settimane lì a Parigi. Sì, ecco, il corteo di ieri è stato un corteo molto toccante, anche abbastanza partecipato. Più o meno, insomma, 4.000 persone secondo la prefettura, più o meno secondo noi 5.000-6.000 persone. Il corteo è partito da una stazione della metro vicino a Belleville, è andato fino alla piazza di Gambetta, insomma ha attraversato il 20° arrondissement, che è un po' il quartiere, diciamo, simbolo per gli antifascisti parigini, specialmente Ménilmontant, dove c'è questo posto che si chiama Le Saint-Sauveur, che è un bar dove Clément metteva musica 2 volte la settimana, insomma un posto che frequentava. In testa al corteo c'erano i suoi compagni, amici più stretti, soprattutto quelli del gruppo Antifa Paris Banlieue, il gruppo a cui partecipava, e il sindacato Sud Étudiant, a cui partecipava lui in quanto studente di scienze politiche. Niente, è stato un corteo molto toccante, ovviamente sono stati momenti di silenzio, ma anche molti slogan. Ci sono stati degli interventi al megafono fatti da amici, parenti e compagni di Clément, e è stato aperto appunto da uno striscione con il suo ritratto e con una scritta: Clément, non ci dimentichiamo, sempre nei nostri cuori. E dopodiché erano stati vietati tutti i simboli dell'organizzazione dei partiti, per cui difficile sapere chi in quanto organizzazione ha partecipato. Comunque sicuramente c'era una buona parte della sinistra, anche istituzionale francese, insomma dell'estrema sinistra istituzionale. E niente, si è conclusa la manifestazione in questa piazza, in cui sono stati fatti degli interventi, sono state cantate delle canzoni. Il corteo è stato abbastanza tranquillo e diciamo che gli organizzatori erano contenti, sono stati molto contenti della riuscita, perché comunque insomma in questo clima, che si aria che si respira oggi a Parigi, sembrava quasi una sfida difficile anche solo organizzare un corteo, insomma, in memoria di Clément e per affermare una serie di principi che sembrano scontati, che però, visto che in questi giorni le piazze sono state attraversate più dall'estrema destra che dai compagni, insomma, si sentiva un clima di tensione molto forte, anche una preoccupazione rispetto alle reazioni dei parigini e anche di eventuali, diciamo, provocazioni da parte della destra. Io vorrei chiederti appunto un po' rispetto a quello che tu dici, il clima che si respira in questi giorni, eccetera. Comunque tu adesso sei lì da 6 anni, quindi vorrei insomma un po' chiederti qualche considerazione su questo, se secondo te diciamo era prevedibile, era solo diciamo un un qualcosa di latente, per cui di fatto si aspettava un pretesto, che comunque ci fosse appunto quello, come poteva essere la proposta di legge che estendeva il diritto del matrimonio anche agli omosessuali, per far diciamo emergere tutto questo, o se invece comunque è inaspettato anche per voi, non so, qualche considerazione. Beh, insomma, diciamo che una tragedia così grande era difficile da prevedere. Dopodiché questo fatto si iscrive in effetti in un contesto di tensione che cresceva sia diciamo proprio nell'ambiente più militante, skin, di aggressioni da parte di questi gruppi di estrema destra, e poi in un contesto più largo, come dicevi tu, appunto, che si è creato con questo movimento contro la legge per i matrimoni gay, e in cui sì, in effetti tutta una serie di discorsi di intolleranza, che siano razzisti, omofobi, hanno comunque ricevuto una legittimazione forte. Penso che l'estrema destra abbia comunque si sia rinforzata, riorganizzata e si senta molto più legittimata a affermare certe idee senza diciamo le barriere ideologiche che potevano esserci prima, per cui questo episodio si iscrive in un contesto in cui altri episodi, per esempio, di aggressioni verso Rom, verso immigrati, verso omosessuali, insomma, si sono prodotte a Parigi, ma anche non solo a Parigi, per cui sì, sicuramente è cioè una cosa che ci si poteva aspettare, forse non fino ad arrivare all'omicidio, ecco. Beh, no, certo, questo sicuramente, però mi riferisco anche ad esempio al, adesso non ricordo il nome, al tizio che si è ucciso a Notre Dame, cioè comunque insomma in questi, sì, sì, in queste ultime settimane, direi forse neanche mesi, comunque davvero si sta parlando tantissimo della Francia, e appunto in particolare sì, se ne sta certo parlando per questo, che è sicuramente... Sì, sì, no, c'è un clima che sta cambiando, nel senso che comunque qui più che in altri paesi penso ci sono sempre state, come dire, dei filtri democratici, repubblicani, una capacità di mediazione che non esiste, credo, in paesi come l'Italia, per cui alcune idee intolleranze di estrema destra, insomma, avevano più difficoltà a fermarsi nello spazio mediatico, nello spazio pubblico. Invece in questi ultimi tempi insomma la situazione è cambiata e il clima è molto teso, e questo episodio ovviamente lo rende ancora più preoccupante. Va bene, Carlotta, noi ti ringraziamo insomma per questa testimonianza diretta, e sicuramente ci sentiremo ancora nelle prossime settimane, così insomma terremo anche un po' sotto controllo quelli che sono gli sviluppi e quello che appunto succederà ancora lì a Parigi. Va bene, grazie mille. Niente. E insomma a sentirci presto, ciao a presto. Va bene, quindi adesso quella che abbiamo sentito era Carlotta, appunto una compagna che vive a Parigi, e ieri diversi striscioni di solidarietà sono comparsi anche in molte città d'Italia, un posto sicuramente significativo è il quartiere di Dax, in cui appunto è stato affisso uno striscione che gira molto in rete, e non da ultimo comunque queste settimane ci raccontano anche qui in Italia, ad esempio dell'aggressione a Zulu dei 99 Poste, il suo fonico, insomma, che sicuramente fa più notizia perché sono persone che più famose, che insomma che tutti conosciamo, e quindi ci sembra significativo anche forse riprendere quello che scrive Zulu e il suo fonico nel suo comunicato, ovvero dell'importanza sicuramente di fare antifascismo nelle strade, perché è solo lì che si può combattere davvero questi personaggi, e appunto per quello che ci riguarda sicuramente ci impegneremo a dare voce anche nelle prossime settimane a appunto agli sviluppi di queste vicende. I Qui durante Interferenza abbiamo fatto un cambio musicale, questa che vi proponiamo è una selezione surf per scacciare un po' il maltempo e l'umore grigio da questa domenica piovosa. E 36, siete sempre in ascolto di Interferenze, proseguiamo quindi con un po' di musica per tenervi compagnia fino alle 17. Ci rilasciamo a quanto ci diceva Carlotta poco fa dalla Francia rispetto insomma al fatto che le proteste che sono esplose contro i matrimoni gay in un certo senso abbiano sicuramente anche preparato il terreno a quello che è accaduto pochi giorni fa, anche se poi insomma negli ultimi giorni quella stessa destra anche parlamentare che aveva appoggiato detto senza insomma troppi segreti queste proteste, poi ovviamente ha preso le distanze dall'accaduto affermando insomma che non ci fosse alcun tipo di legame, che azioni di questo tipo andassero assolutamente respinte. Quindi insomma in questo senso vogliamo spendere due parole anche su Torino, sul corteo che c'è stato ieri, insomma l'annuale Gay Pride che si tiene appunto ogni anno qui a Torino come in altre città. Quest'anno il Pride nazionale era stato convocato a Palermo, un Pride insomma un po' diverso dagli anni scorsi a partire già dal nome, infatti quest'anno era stato convocato col nome di Family Pride, una scelta insomma sicuramente controversa e discutibile, che infatti ha portato diverse realtà cittadine, almeno per quanto riguarda Torino, a scendere in piazza con uno spezzone insomma un po' più critico, che comunque portasse dei contenuti diversi in piazza, non concentrandosi insomma esclusivamente su un'inclusione normativa dei soggetti non eterosessuali all'interno di un concetto come quello di famiglia, di matrimonio, ma che insomma cercasse di allargare un po' il discorso. Quindi uno spezzone in cui anche noi come laboratorio ovviamente ci siamo ritrovate e a cui abbiamo contribuito insomma alla costruzione, quindi sicuramente insomma soddisfatti di quanti sono scesi in piazza ieri assieme a noi, comunque all'interno di una manifestazione, di una bella manifestazione. D'altra parte però mi sembra giusto appunto riprendere un po' quello che diceva Francesca e sottolineare come problematico il fatto che anche visivamente, quindi semplicemente guardando quelli che erano i cartelloni che indicevano la manifestazione, diciamo, non fosse completamente scomparso il termine gay, appunto Gay Pride, ma diciamo si vedeva solo Family, e quindi insomma questo sicuramente non può sicuramente essere in linea con quello che vorremmo che fosse una giornata di quel tipo, che se da una parte appunto è anche un po' negli ultimi anni sicuramente un'occasione per fare business, diciamo, per far parlare di sé da parte di alcuni locali che fanno di questa serata a tema, diciamo, appunto un modello di socialità non, sicuramente non alternativa, ma anche appunto si inseriscono completamente in una logica del tutto compatibile, e in quella giornata lì vedono un'occasione per fare business. Dallo stesso cioè dall'altro punto di vista ci sta il fatto che appunto anche e sicuramente anche è ancora di più problematico il fatto che appunto fosse completamente sparita la parola gay, ma anzi si vedesse Family Pride eccetera. Quindi da qui l'importanza anche di problematizzare un concetto come quello di famiglia, che cosa si intende per famiglia, quanti tipi di famiglia si conoscono, e anche sicuramente l'inclusione e quella giornata al diritto e il Pride di tutte quelle persone che invece una famiglia non la vogliono formare affatto. E il pezzo che state ascoltando è Surfer Boy. Dall'agenda di Radio Blackout, che al momento è la nostra unica fonte di collegamento con il mondo esterno, andiamo a ricordarvi che è in corso in questo momento una montagna di libri contro il TAV, quindi la tre giorni organizzata in Valsusa, che si conclude oggi, mentre andiamo anche a ricordarvi sempre dalla valle un appuntamento che si terrà domani alle ore 19 da Giaglione, passeggiata no TAV fino al cantiere della Clarea e merenda sinoira alle reti, organizzata da Torino, dal Comitato Torino e Cintura a Saradura. E niente, proseguiamo con la musica e appunto questo è sempre Interferenze, siete in ascolto delle libere frequenze di Radio Blackout. Yeah. E se volete raccontarci che cosa sta succedendo al di là di Via Cecchi, il numero per farlo è 346-6673-263. I begged him not to drag anymore, but he sped off in a roar. I knew he had the dead man's perm, just to prove he had the nerve. Don't drag no more, baby, please. Don't drag no more. Don't drag no more. Don't drag no more. I'm so afraid when you go to the street. Tell the things this may be your last trip. Driving me so much too. Nothing I can do but stand. Don't drag no more, baby, please. Don't drag no more. E 50, allora, nonostante tutto stiamo giungendo al termine di questa puntata, quindi gli ultimi 10 minuti per interferenze per questa settimana. In conclusione ne approfittiamo per presentarvi un appuntamento che ci sarà la prossima settimana qui a Torino, una a due giorni che abbiamo lanciato a conclusione del progetto What's Body, che abbiamo portato avanti durante quest'anno come laboratorio, allargandolo insomma anche ad altre persone, che appunto aveva l'obiettivo di indagare il tema del corpo, un obiettivo che abbiamo cercato di raggiungere finora soprattutto con appuntamenti, incontri e seminari che quindi hanno insomma indagato il tema del corpo da diversi aspetti. In questi due giorni invece vorremmo parlare del corpo mettendo in gioco innanzitutto i nostri di corpi, quindi ci sarà una due giorni di sperimentazione che si articolerà appunto in due giornate. La prima al centro sociale a Scatasuna sabato 15 giugno dalle 3 ci sarà un laboratorio su intitolato My Slut Walk, che vedrà ospiti le compagne del collettivo Le Ribellule di Roma, che quindi ci raggiungeranno qua a Torino per l'occasione, mentre domenica 16 l'appuntamento sarà al Circolo Morrison in via Stampatori per un laboratorio di drag king. Insomma, ci sembrava il modo migliore per spiegare a noi stessi in primis e a tutti quanti che cosa significa performatività dei corpi, quindi insomma quale modo migliore se non quello di provare su noi stessi il fatto che il maschile e il femminile diciamo sono costruiti socialmente, provando insomma su di noi ad aprire per un giorno e poi chissà nuove possibilità, quindi travestendosi, quindi mettendo in scena altre identità che in quel giorno ci sentiremo di avere. quindi questo ci sembrava infatti il modo migliore per concluderla e per mettere in pratica un po' di quelle domande, un po' di quegli interrogativi che ci siamo posti durante quest'anno, in cui insomma abbiamo parlato di corpi come strumento politico, di corpi come resistenze allo sfruttamento dei territori, come resistenze ad imposizioni, a leggi che, contro cui ci sentiamo quotidianamente di lottare. Corpo come primo strumento politico, quindi insomma maxi tema che racchiude un po' tutto, dal discorso sugli stereotipi che lo riguardano ad un discorso sulla sessualità, sulla libertà di praticarla e quant'altro. Quindi sicuramente l'appuntamento lo ribadiamo ancora una volta per questo weekend, quindi 15 e 16 giugno dalle 3 del pomeriggio alle 6, il sabato al centro sociale Scatasuna e invece la domenica al Circolo Moris. Le due giornate ovviamente saranno aperte a tutti e tutte, oltre insomma ai workshop ci saranno anche poi dei momenti di socialità a seguire. Insomma, per tutte le informazioni del caso vi rimandiamo al nostro blog sguardisuigeneris.blogspot.it o su Facebook all'account appunto di Sguardi Sui Generis, dove potete trovare l'evento e tutto quello che serve, insomma, anche per darci una mano a pubblicizzare se ne avete voglia. Sono le 16:54, vi lasciamo ancora un pezzo musicale, facciamo un nuovo cambio di sonorità, vi lasciamo con un po' di flamenco, poi ci prepariamo per i saluti. Sabato sera, a conclusione del pomeriggio di workshop, ci sarà anche una serata musicale curata da Cristina Affiniti, amatissima DJ di questa radio, che cogliamo l'occasione per salutare e le mandiamo un bacione. Al di là del vetro ormai c'è l'intero palinsesto della domenica, qui mandiamo un saluto, ci prepariamo a fare un nuovo cambio di postazione qui ai microfoni, a lasciare la linea, lo spazio a Lino e a Dani di Animal Radio. Noi vi diamo appuntamento a domenica prossima, un salutone da Daniela e un saluto anche da Francesca e rimanete sintonizzati sulle libere frequenze di Radio Blackout.